Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Immobili, Ario e Berto guardavano la Maona calcolando di quanto poteva essere salita la linea di galleggiamento. Va bene, pensava Ario, adesso i tappi devono trovarsi sott'acqua. Continuarono a guardare ora qua e ora là nel mandracchio, cercando di non misurare il tempo. Ogni tanto chiudevano gli occhi e, sempre proni al sole, restavano a lungo così. Ma, disse a un tratto Ario, riaprendo le palpebre, e fissò le pupille grandi, come se appena allora si accorgesse e si stupisse di qualcosa, sulla Maona. Mi hai detto che Lidia e Eneo si incontrano di nascosto lì a bordo, in quella specie di cabina che abbiamo visto giorni fa. Ma come fanno ad andarci di nascosto, se prima di cena non fa ancora buio? Lì si può vedere. Qualcuno può accorgersi che Lidia... Cercano di andarci sul tardi. A quell'ora sulle rive non c'è quasi nessuno. E sui bastimenti stanno intorno al fuoco a mangiare. E poi li ho visti come fanno. Sale prima lei, in un attimo. La Maona è a due passi dalla riva. E dopo qualche momento, con quell'aria strafottente, sale lui. E poi chi può vederli? Da una parte c'è la petroliera vuota, dall'altra i rimorchiatori su cui di notte abita soltanto Eneo. Quando tornano fuori è già buio. Va bene, però, fece Ario, però quello non mi sembra il posto più sicuro per due che vogliono incontrarsi di nascosto, voleva aggiungere, preso dal sospetto che quella storia della Maona fosse un'invenzione di Berto per fare uno scherzo anziché a Lidia, a lui. Invece tacque. Ma del resto cosa credi? Si rizzò sui gomiti Berto. A loro non gliene frega un corno se qualcuno li vede. A Eneo no, disse Ario, ma a Lidia. Il cuore gli era salito come tante altre volte, sino in gola. Oh, alzò la spalla Berto, neanche a lei. Ario si voltò tutto verso di lui, sollevandosi sul busto. Perché dici questo? Lo udì ridere, breve. Perché lo so. Che cosa sai? Quel che t'ho detto? Tacque un momento, poi spiegò. Lidia non fa mica tante storie. Deve sapere ormai che quasi tutti hanno già capito che tipo è e non si preoccupa di nasconderlo agli scemi che non lo sanno ancora. Ario, che era rimasto sollevato sui gomiti, si rizzò ancor più sul busto. Ma come? Cominciò. Calmo, dopo essersi riadagiato sull'assito, Berto non volse nemmeno il collo. «Ti dico che lo so!» Trascorse qualche attimo che per Ario, cui martellava il sangue nelle tempie, fu eterno. Si udiva vicino soltanto il ronzio del moscone. «Credi?» riprese infine Berto, «che Lidia sia innamorata di Eneo? Si diverte, ecco tutto. Eneo o un altro per lei fa lo stesso, purché sia in gamba». Preferisce Eneo, naturalmente, perché è quello che è, e di lui va matte tutte. Però, se le capita l'occasione... Ti ricordi di quei giorni che Eneo era via per il campionato di Napoli? E poi si è saputo che non era a Napoli, e dicono che si era fermato a Roma per andare con una milionaria che lo ha caricato di soldi? Ario annuì. Ebbene, mentre Eneo faceva girare la testa, dicono, anche altre signore, tutte contesse o principesse, e una l'ha anche portato a Capri, in quegli stessi giorni, Lidia qui ha fatto becco lui. Ario lo guardò senza parole, quasi senza fiato. «Me l'han detto giorni fa», continuava Berto, «e ci credo. Ti ricordi che usciva dicendo che andava a ballare?» Se ne ricordava. E come? Si ricordava di quel pomeriggio che si era preparato per uscire con lei e l'aveva accompagnata sino in fondo al molo. E là Lidia si era sbarazzata di lui dicendogli che si guardasse un po' com'era, ancora in calzoni corti, e che non lo voleva con sé. E lui era tornato indietro soffocando dall'umiliazione, con la gola chiusa e le lacrime agli occhi. Era stato, se ne ricordava, lo stesso pomeriggio in cui ritornava da Napoli lo skiff. Mentre Berto e l'autista lo scaricavano dal camioncino, egli era rimasto a guardare e poi tutto a un tratto aveva chiesto «Dove va a quest'ora?» «Lidia», gli aveva risposto Berto, «a ballare», dice. Schivò adesso gli occhi di Berto. «Ah, fece Rauco. E non era vero allora, non andava a ballare. Sì, questo sì, ma senti un po'. E gli raccontò che Lidia andava con due o tre amiche, tra le quali quella bionda con cui era solita recarsi al cine, in un ritrovo fuori di mano, a Barcola. Era un locale con giardino, gli avevano raccontato, ove d'estate si ballava all'aperto e sopra, al primo piano, c'erano le camere. E tutti lo sapevano e ci andavano apposta. Ogni tanto una coppia spariva e poi ridiscendeva. «Va bene», tentò Ario e si sentì subitamente le guance in fiamme, «ma non saranno saliti mica tutti? Chi ti dice non tutti?» Alzò la spalla Berto. «Ma Lidia sì, l'hanno vista!» «Capisci?» Lidia, gli era stato detto, l'avevano veduta mentre saliva in camera, animata in viso e ridendo, in compagnia di un sottufficiale di marina. «Ma come puoi, se non l'hai vista tu? Chi te l'ha detto?» Berto tacque. Pareva volesse rispondere, ma esitasse. «Mente», pensò ancora una volta Ario. «Chi può credergli nulla? Chissà quante fandonie mi ha raccontate!» «Me l'ha detto uno», si decise infine Berto, «al quale posso credere come se l'avessi vista coi miei occhi». «Di addirittura», esclamò Ario, e una nuova fiammata gli investì le guance, «che eri là a spiarla». «No, io no, non sono mai stato là». «Chi allora?» «Ma lo sai. Hai visto con chi sono andato via quella mattina, quando ci siamo lasciati dopo il bagno a Savoia?» Ario si ricordò della motocicletta e rivide Berto saltare sul sellino di dietro. «Tuo cugino?» Berto accennò di sì. «Ora lo sai. È lui che me l'ha raccontato, quando siamo giunti all'arsenale. E mi ha detto che non devo farlo sapere a nessuno, e tantomeno che l'ho saputo da lui, ma che dobbiamo badare a Lidia. E mi ha detto che lui conosce quel sottufficiale, e che Lidia non è stata, crede, soltanto con lui. Pare che anche altri l'abbiano veduta e che sia stata persino con quella guardia di finanza, quel siciliano, sai, che ferma sempre tua madre». «Basta», si disse Ario, sentendo una stretta allo stomaco. «Ora basta». E non ascoltò. Non poté ascoltare più. Percepiva soltanto il tumulto del cuore e si era disteso sull'assito quasi per vincerlo, per comprimerlo, col costato premuto contro il legno. Un altro colpo, e gli giungeva sconvolgendolo quando era ormai certo di aver toccato il fondo di ogni amarezza e che nulla potesse turbarlo più. Gli risuonavano ancora quelle parole di Berto. «Si diverte, ecco tutto, se le capita l'occasione. Ha fatto becco anche Eneo». «Se fa così», pensò con improvvisa chiarezza disperata, «allora era inevitabile. Era come una forza più grande di tutti noi e anche di lei». Riudiva, come le uniche vere, le parole di sua madre quando l'aveva spogliata nuda nel camerone. «Puttana! Puttana!» E rise dentro di sé crudamente, ma nello stesso istante gli occhi gli si colmarono di lacrime e dovette abbassare e nascondere il viso sull'assito, fra le braccia, per non farsi scorgere da Berto. Della presunzione e dell'ingenuità che aveva avute qualche ora prima, quando, al ritorno dalla Maona, lo aveva colto il pensiero che se Lidia aveva ceduto a Eneo era stato per colpa sua, di lui, Ario, che in quei giorni precipitosi non aveva saputo offrirle con la propria amicizia l'appoggio che lei, distinto, gli chiedeva. Non si vinse, non poté vincersi. Aveva la gola chiusa e il viso già bagnato di pianto. Prono, con la fronte poggiata sulle braccia e la bocca contro il legno, che pur sentiva caldo, buono, odoroso di catrame, lo scosse un singulto che cercò di soffocare per non farsi udire da Berto, e poi un altro. Capiva, adesso, perché gli era piaciuto credere che Lidia fosse caduta, anziché per colpa propria, per colpa sua, di lui. Se fosse caduta senza propria colpa, come aveva sperato, avrebbe visto ancora in lei la possibilità di riprendersi. Le lacrime, sebbene tentasse di trattenerle, gli scendevano per il viso e non capiva se Berto non lo vedesse orgersi, imbarcarsi, andare via, lontano. No, Era troppo tardi. Avrebbe voluto, e premeva la fronte, la bocca, tutto il viso contro il legno ormai bagnato, scomparire, non esistere più. Pure, in quegli stessi momenti, Lidia dominava in lui inquietante. Non la vedeva meschina, diminuita, ma al contrario, più complessa e misteriosa, con alcunché nella sua stessa perdizione che la faceva grandeggiare. C'era, Ario lo sentiva, in ciò che Lidia aveva fatto, obbedendo a un'ansia insopprimibile della sua natura, qualcosa di vivo e di ardito che lo lasciava senza parole, eppur nell'angoscia, quasi senza la forza di condannarla. Non la vedeva più bambina, in nulla, quasi non fosse più lei l'antica compagna di giochi, poco maggiore di lui e di Berto, ma donna, e lanciata in una sua vita che sfuggiva per sempre a loro. Tuttavia gli pareva, e se ne accorgeva appena ora, che qualcosa di strano, di oscuro, di spontaneo e insieme di complesso ci fosse in lei sin da piccola, sin da quando faceva la riverenza nel camerino, e soprattutto da quando, già quasi grande, si era lasciata processare sul molo della lanterna e spogliare, calpestare, insudiciare senza batter ciglio, per poi sopportare nuda la sua condanna sulle lamiere scottanti. Gli nacque per lei fra questi pensieri, e gli si erano già asciugate le ciglia, un'ammirazione nuova, sfacciata e torbida, fusa a un rimescolio del sangue. «È così», concluse già sereno, «e bisogna trattarla per quello che è». Rialzò il capo, guardò la Maona. Si sentiva, pensando a Lidia, forte, quasi aggressivo, sebbene gli perdurasse dentro una lontana punta di angoscia. In quel momento lo umiliava, lo offendeva soltanto una cosa. Se Lidia era quella che ormai tutti sapevano, lo faceva arrossire di rabbia e di sdegno che lo fosse con altri, con Eneo e con coloro che la tentavano all'insaputa di Eneo e avesse rifiutato invece di andare con lui, trattandolo come un bambino. Questi pensieri gli ravvivavano, accendendolo, l'ansia che scendesse presto sera per poter finalmente agire con impeto, con gusto. E tornava a guardare la Maona. Non sentiva più alcuno scrupolo, né alcun timore. Prima c'era in lui la paura di andare troppo oltre, di danneggiare Lidia, di rovinarla forse con quello scherzo pazzo. Adesso non se ne preoccupava più. All'irrompere dell'acqua nella Maona, Lidia balzerebbe fuori in coperta insieme ad Eneo, così com'era, nuda magari. E poteva darsi che molti dalle barche e sulle rive la riconoscessero e capissero che cosa stava facendo lì sotto. Ma che poteva importare? Non lo sapevano già lì nel mandracchio e non solo lì che tipo era Lidia? E si preoccupava forse lei di nasconderlo? Berto parlava. Tornò ad ascoltarlo. «Sulle prime non capivo», diceva, «perché vadano sulla Maona, mentre Eneo può far quello che vuole sul rimorchiatore, tanto più che il Titanus non è come l'Empedocle, ha una cabina comoda». «Già», si stupì Ario, «come mai non vanno sul Titanus?» «Poi», continuava Berto, «ho saputo perché. Eneo è stato ammonito, pare, dalla società dei rimorchiatori a non condurre donne a bordo. Se continua a portarsele in cabina, lo licenziano, gli han detto. L'ho saputo dalla guardia di finanza. È per questo che porta Lidia sulla Maona. Ma con stasera è finito. Domattina presto deve rimorchiare la Maona insieme alle altre sotto il Conte Verde che sta facendo carbone». Qui tacque. Poi concluse. «Ecco perché stasera non mancherà di portarsi Lidia in casino». E gettò un'occhiata sul mandracchio come per assicurarsi che la Maona era sempre là. «È l'ultima volta, capisci? Da domani», sghignazzò, «sono senza camera». Guardandoli sotto, verso il proprio pontone, Ario scorse sua madre. Gli parve, lì all'aperto, nella luce già un po' cruda dell'ultimo settembre, sciupata, imbruttita. Aveva gli occhi inquieti anche ed era spettinata. «Che sappia pure lei queste cose?» si domandò. «Sa tutto di Lidia? E sa che continua ad andare con Eneo, che c'è sempre andata, anche quando pareva che si fossero lasciati?» Mentre ella girava per la zattera da prode per i ballatoi, guardando qua e là, lo colse il timore che lo chiamasse e riabbassò la testa sull'assito per non farsi scorgere. Temeva, sebbene non fosse neanche il tramonto, che ella gli togliesse la possibilità, ordinandogli qualcosa, di fare quella sera ciò che avevano progettato. Berto parlava ancora. Se la società dei rimorchiatori aveva minacciato Eneo di licenziarlo nel caso che portasse donne a bordo, voleva dire che qualcuno, tempo addietro, lo aveva spiato, denunciato. Ti ricordi di quella notte che mio padre tornò a casa furibondo e volle fare l'esame a Lydia? Ebbene, qualcuno, prima che rientrasse, doveva averlo messo su contro di lei. E dato che Lydia era stata quella sera con Eneo a bordo di un rimorchiatore sull'Empedocle, era probabile che chi aveva avvisato suo padre avesse avvertito anche la direzione dei rimorchiatori. Ario sbirciò, oltre le spalle di Berto, sua madre, che in quel momento passava per il ballatoio di rimpetto, e trepidò. È stata lei. Ma che Berto lo sappia, o sospetti, e che sappia di lei e di Eneo anche il resto, tutto. Già, ci sono tante che van pazze per Eneo, e lui non le guarda nemmeno, si affrettò a rispondere, come per dire, sarà stata l'una o l'altra. Berto non rispose. Più tardi, poco prima del tramonto, udirono lì sotto sulla zattera la voce di Eneo. «Dov'è Berto?» domandava. «Non c'è, deve essere fuori», rispondeva qualcuno. «Taci!» sussurrò Berto ad Ario e fece l'atto di tappargli la bocca. «Perché non vai ad aiutarlo?» «No, oggi no». «Sente già il rimorso», pensò Ario, «di ciò che mi ha incaricato di fare questa sera contro di lui e preferisce non incontrarlo, non parlargli». Eneo dovette disimpegnarsi quella sera da solo. Portò lo skiff fuori della rimessa, reggendolo alto sulle braccia, e lo posò sull'acqua. La zattera da prodo era deserta. Un po' per la stagione già avanzata e un po' per la giornata di festa, quasi nessuno era venuto quel pomeriggio alla Virtus. C'era lì in quel momento, seduto coi piedi in acqua, soltanto il piccolo timoniere dal cognome Greco. Ma non prestò attenzione a Eneo. Seduto lì, guardava il mare e fischiettava. Non si capiva che cosa attendesse. Posate le natiche con una delicatezza che non gli si sarebbe sospettata sul minuscolo carrello che aveva la forma di un cuore, infilati i piedi e bilanciatosi coi remi nel giusto equilibrio, Eneo partì. Procedeva lento, facendo sussultare sull'acqua, nella ripresa della vogata, le pale bianche e azzurre dei remi come in tanti leggeri schiaffi che sollevavano lievi spruzzi, e si voltava di tratto in tratto a guardare verso l'uscita del mandracchio. Poi, quando fu all'altezza della lanterna, lo si vide distendersi magnificamente all'indietro nella sua superba, lunghissima vogata, e lo skiff scivolò via che pareva non toccasse, ma sfiorasse l'acqua, quasi in volo. «Hai visto?» gridò Berto, che si era sollevato sui gomiti. Aveva il fiato in gola e gli occhi fuori dalle orbite. Ario annuì. Era rimasto senza parole, col fiato mozzo, entusiasta anche lui davanti a quella semplice ma stupenda dimostrazione della potenza atletica di Eneo. «Va ad allenarsi», disse Berto, «alle dighe. Riprende ora l'allenamento, te l'ho detto, e mi saprai dire se non la fa vedere a tutti». L'avrebbe fatta vedere, e presto. Ario questa volta ne era convinto, quasi suo malgrado, anche senza che Berto glielo dicesse. E mentre seguiva quel volo del campione, che presto disparve fuori del porto, si sentì palpitare stranamente il cuore. Una sorpresa, quasi incredibile, che li lasciò perplessi e di malumore, li attendeva appena tornarono a voltare lo sguardo sul mandracchio. Si vedeva sulla Mahona, a poppa, un uomo, quasi un vecchio, seduto con le gambe penzoloni fuori del bordo, e pareva non intendesse andarsene. Stava lì. In malora, pensarono, ci mancava questa. Se non scende tutto va all'aria. Ma chi era? Di dove sbucava? Aveva con sé una bisaccia e si vedeva al suo fianco anche un fiasco di vino. Lo riconobbero tutte e due insieme quando, rimessosi in testa con una manata, un cappello largo, con una penna, afferrò il fiasco e diede una sorsata. Un alpino! Doveva essere, spiegò Berto, un vecchio alpino sceso dalle sue montagne per assistere alle celebrazioni di quel giorno. Alla rivista, soprattutto, degli alpini reduci dall'Africa, tra i quali c'era forse qualche suo figliolo. Purché se ne vada dalla Maona, disse Ario. Sperava che fosse salito lì soltanto pochi momenti per mangiare dalla bisaccia. Eneo ritornò quando il sole tramontava, arrossando le alberature del mandracchio e accendendo i vetri delle case. Tirati più indietro, che non ci scorga, disse Berto ad Ario, non appena udì il rumore secco della sua vogata. Il piccolo timoniere era sempre lì sotto, sulla zattera, nella stessa posizione. E, quando l'atleta sbarcò, ricominciò a fischiettare. Molleggiandosi sulle gambe, Eneo lo abbracciò un istante con lo sguardo e socchiuse le palpebre. Ario, lì in alto, sentì un'improvvisa inquietudine, come il giorno che aveva guardato in quel modo lui nell'andito della doccia. «Andrai davvero a fare la lotta con Eneo?» fu per chiedere a Berto. Invece, tacque. Ventunesima e dunque penultima puntata della lettura integrale dell'Onda dell'Incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini, ha letto Ferdinando Bruni per Ad Alta Voce, che a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, per la regia di Luigi Iavarone. Come sapete, tutto riascoltabile su raiplayradio.it.